ci siamo, no? siamo ritornati, sempre la prima puntata del 2014. La prima puntatona del 2014, che dire, Peppe, un 2014 iniziato bene, perché alla fine c'è iniziato bene. Niente, alla fine, appunto, dicevamo la prima puntata del 2014, la nona di questa nuova stagione di Clandestino Cid, sempre più pimpanti, sempre più Cid. Sempre. Iniziamo con la musica, cioè la buona musica, la di buona... Clandestino. E iniziamo con un pezzo, non lo so, iniziamo con un pezzo di Lou Reed, Ciccio. Un pezzo di Lou Reed, ci sto, Peppe. Il grande Lou Reed. Morto da poco. Arriviamo subito col salutare Ivi, direttamente dal Guatemala, che ci sta ascoltando, Peppe. Un saluto alla nostra amica, vecchia ospite di qualche stagione fa di Clandestino, rimasta fedele. Fedele alla linea, sempre, Peppe. Anche se la linea non c'è. Non c'è forse la linea? No, c'è la linea, c'è. C'è. Allora, Peppe, niente, questa puntata è come al solito le più meritevoli notizie per quanto riguarda Clandestino Cid. Vabbè, certamente partiremo quasi da una notizia di cronaca degli ultimi giorni, ormai diventata cronaca, il fatto delle armi chimiche a Gioia Tauro, Peppe. Per quanto riguarda le armi chimiche provenienti dalla Siria sul sito di stoccaggio di Gioia Tauro, cioè è stato, secondo il ministro Lupri, un'eccellenza italiana quella di Gioia Tauro stesso, cioè a livello di lavoro e a livello comunque di porto. Ricordiamo uno dei porti più importanti del Mediterraneo, Peppe. Però il fatto è che lo stesso Scopelliti, il nostro amico Scopelliti, il tuo amico Peppe, va a prendere determinate decisioni, decisioni che comunque premono sulla vita di tantissimi abitanti, perché comunque niente, il tutto dovrebbe compiersi per la fine gennaio, inizio febbraio, e sistematicamente si parla di trasportare questi rifiuti da questi container contenenti rifiuti da una nave mercantile all'altra. Questo, Peppe, la cosa grave è che verrà fatto in mare, cioè cosa molto... La cosa grave è che verrà fatta in Calabria. Vabbè, in Calabria certo, nel mare della Calabria. Vabbè, però alla fine il Tirreno, si sa, ne ha tante navi sotto, quindi... Però no, il fatto scioccante è proprio questa, farla comunque in un porto civile, portare il materiale militare in un porto civile, traslocare questo materiale sul mare, su una piattaforma marina, non sulla terraferma, quindi aumentando proprio la pericolosità del tutto. Però alla fine vedi comunque com'è strana la cosa, Peppe. Quando è iniziata la guerra in Siria, armi chimiche sembravano quasi delle favolette, invece adesso si arriva per lo stoccaggio. Ed è strano come l'America, no? Cioè, le navi americane che prendono questi container, non sono proprio loro a dare queste armi alla Siria, Peppe. No, Ciccio, l'America non le fa queste cose. Le armi chimiche se le costruiscono da sole. No, ho capito. Allora, come ti vengono in mente, davvero? È tutto più chiaro. Ricordiamo che nella pennetta non c'è la canzone. No. Qualcuno capirà. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti con un pezzo che dedichiamo alla nostra nuova ascoltatrice Alessia, che ci ascolta da Milano. Gli dedichiamo un pezzo di... Come promesso. La linea fa schifo, però mandiamo Rino Gaetano, un pezzo abbastanza poco conosciuto, si chiama Solo con Io. Tu lo conosci, Ciccio? Certo che lo conosco. Ok. Freddo se freddo. ritorna in studio, Ciccio. Problemi di tempo danno la linea abbastanza... Va male la linea, Ciccio. Va male? Malissimo. Mezza male. Quando è rosso vuol dire che non va bene. Che non si passa. Così come tutte le auto quando è rosso. Il semaforo è rosso, anche il per noi. Il semaforo, noi. No. Non l'avevo così. No, quello è il triangolo. Allora, Peppe, mio marito puzza. Non sapevo che fossi sposato, Ciccio. Ma mi costringe a fare sesso. Pastore condannato. Non è una fiaba, ma è tutto vero. Siamo a Caltagirone, Catania, dove un allevatore viene condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale. Si tratta di un pastore siciliano, Peppe, di Caltagirone, che rientro dal pascolo avrebbe più volte costretto la moglie a tenere rapporti sessuali senza praticamente alcuna igiene e pulizia del proprio corpo, come avrebbe chiesto invece la donna, Peppe. Per tutto questo, comunque, il pastore è stato condannato per violenza sessuale, anche perché comunque nel 2007 aveva già avuto un altro tipo di condanna del genere, Peppe. Consensualmente. Quindi, Peppe, capito? Ciccio, certo. Si va in carcere anche per questo. E ritorniamo con belle notizie, Ciccio, no? Belle notizie, certo. Abbiamo Alessia che volevo salutare, Tarlo e tutti quelli che mi conoscono. Salutiamo Sonia che ci sta ascoltando, Teresa. Salutiamo Luca da Roma che ci ascolta e aveva chiesto una canzone. Però non possiamo mandarla stasera quel pezzo, Luca. Perché siamo censurati. No. È un pezzo con il blues, non si può mandare. Blues. Salutiamo Lorenzo Blues che ci sta ascoltando dal mare. Dal mare. Lorenzo Blues che viene dal mare. E niente, passiamo al prossimo pezzo che dedichiamo a Daniel e a... E a chi ce lo dedichiamo? Lo dedichiamo a Daniel, però dai, poi che se meglio lo dedichiamo a qualcun altro. No, a Daniel e a Luigi, perché oggi finiscono gli esami, sì. Oh. E naturalmente la salutiamo anche il nostro amico da Londra, il nostro collega Lupino. Ti aspettiamo per fare la festa della radio. La festa della radio. Partiamo con un pezzo degli Who, Ciccio, i chi. Chi? Chi, Ciccio. Chi? Bobby Riley. Thank you. Perfetto, Ciccio, la canzone dei Key, bellissima, bellissimo questo pezzo, Bubba Riley. Chi era Bubba Riley, Ciccio? Bubba Riley? No, lo sappiamo chi era. Era un personaggio misterioso. Volevo salutare con affetto, che gli mando un grosso abbraccio, Maria Rita, che ci ascolta da Pisa. Camilito e Italuzzo Kurz Mad Monkey, con affetto veramente, per quando, cioè, quando senti l'affetto lo devi dimostrare, penso. Qui ci comunicano i nostri amici ascoltatori che ci sono problemi tecnici. Problemi tecnici? Che tipo? Io non ne ho problemi, sono io il tecnico, quindi Forse va perfettamente, evidentemente avranno sbagliato a collegarsi con il proprio. Siete collegati su Fuori Onda Radio, siete collegati oppure è stato le Zingerson. Molto probabilmente. Noi abbiamo la soluzione a tutti, vi stiamo dando molteplici dimostrazioni di quelle che possiamo fare. E nulla, Pep. Allora, sapevi che allora, sapevi che cosa? Che a Rieti una suora partorisce bimbo al picco nome di Francesco. Questo è il figlio del Papa. Allora, la donna a 31 anni di El Salvador è stata soccorsa martedì notte al 118 del convento di Campomoro per porti addominali. I medici è subito apparsa chiara la gravidanza, ma lei ha continuato a negare. Mercoledì mattina è nato il bambino, 3,5 kg, Peppe. Con salute. Non sapevo di essere incinta. La madre superiore non ha saputo resistere alle tentazioni. Il vescovo lascerà l'istituto religioso per avere cura del piccolo. Ma non può essere che come... La Madonna. Peppe, è stato lo Spirito Santo, Ciccio. Eh? È stato lo Spirito Santo. È stato lo Spirito Santo, no? cioè, non capisco perché adesso dobbiamo chiuderci, quindi essere quasi bigotti al vescovo e alla madre superiore. Secondo me si tratta appunto di qualcosa di giusto, Peppe, di... Sì, cioè... Il Papa, non lo so, è stato lui, quello che ha Francesco. Il Papa che è Francesco. Ah. Il fratello di Gesù, Tarlo, il nostro indignato di Roma, che salutiamo con affetto, e arriva subito, infatti lui arriva subito con la sua vaticanata e ci dice che è il fratello di Gesù. Esatto. Ok, Peppe, e io direi di dedicare un pezzo al fratellino di Gesù, di 3,5 kg, che non sappiamo, cioè il nome è Francesco, e il pezzo è Elio e le storie cugine. E le storie tese. Allora è il cugino, Ciccio, avete sbagliato. Vabbè, un fratello comunque... Vabbè, un cugino... È un cugino di qualcuno. Comunque, andiamo con Eli. È il cugino di... Dai. È il cugino di mio cugino, Ciccio. A me me l'ha detto mio cugino. E andiamo con tuo cugino, dai. Si è schiantato con la moto. Mio cugino. Mi ha detto mio cugino che poi si è tolto il casco, si è aperta la testa. Mio cugino. Mio cugino si è tolto il casco. Mio cugino si è aperta la testa. Mi ha detto mio cugino che una volta ha trovato in spiaggia un cane, invece era un topo. Non ci posso credere, ora mio cugino. Mi ha detto mio cugino che una volta è stato con una che poi gli ha scritto sullo specchio benvenuto nell'AIDS. Uguale. Mio cugino è topo cane e mio cugino benvenuto nell'AIDS. Mio cugino. Mio cugino è rispettato, amico di tutti. Mio cugino ha fatto questo e quello. Mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino. Anzi, io chiamo a mio cugino. In discoteca ha conosciuto una tipa che però poi non si ricorda più niente, e alla fine si è svegliato in un fosso tutto bagnato, che gli mancava un rene. Mio cugino. Mi ha detto mio cugino che se ha un colpo segreto, che se te lo dà dopo 3 giorni muori. Mio cugino. Mi ha detto mio cugino che da bambino una volta è morto. Mio cugino è ricercato, amico di tutti. Mio cugino ha fatto questo e quello. Mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino. Anzi, sapete cosa vi dico? Io chiamo a mio cugino. Thank you. per vedere se è la stessa persona. Anche a tuo cugino quando ha avuto le emorroidi è partito il tappo e ha ferito l'infermiera. Questa infermiera poi la conosco perché mi ha soccorso quando da piccolo. Una volta mi hanno sparato e non sono morto, però hanno colpito il ragno che usciva in quel momento preciso dal tronchetto della felicità. Allora che ho fatto? Col mio amico coccodrillo bianco delle fogne di New York siamo andati a pronto soccorso a trovare dei nostri amici che si facevano togliere delle cose tipo arance, bottiglie, maniglie, porte, cani, munghi. Quando a un certo punto vidi incontro, non ci potevo credere! Si ritorna dopo una cuginata. Una cuginata. A proposito, vabbè, secondo me, dai, per la confidenza che c'era tra San Pietro e Gesù, si potevano dire cugini, Peppe. E andammo appunto a vedere anche la coerenza del Santissimo Padre, Peppe, che confessa da giovane fumavo marijuana. Quindi vedi un po' come Gesù, come San Francesco, anche Papa Francesco, si rivela uno dei più grandi raver della storia, Peppe, che continua comunque con la sua escalation e la sua maturazione che appunto porta a dirle anche questo. Da giovane fumavo marijuana, il Papa. Pensa che Peppe... Quindi se il Papa fuma vuol dire che è una cosa buona, religiosa. Vuol dire che la marijuana è buona, cioè per la religione e per, non lo so, per lo spirito, Peppe. Anche perché comunque adesso molto probabilmente se lui vorrà... Chi? Lui. Lui? Lui. Il Papa? Lui. Il Papa, sì. Ah, ok. Molto probabilmente, cioè, magari si passerà al livello di... Da domani verrà tutto legalizzato. Legalizzerà la marijuana il Papa. Se gli piace ancora, può darsi. Peppe. Può essere. Sai com'è la... Ma se, cioè, nel Vaticano coltivano marijuana, Peppe. Lì è un altro stato, quindi... Può farlo. Allora, Peppe. Cosa ci... Correva l'anno... Sì. Passiamo con questa canzone che ho scoperto di recente essere una poesia di Leonardo Vigo. Del 1857, testo originale, che è questo che riporta nel suo brano Modugno, dove praticamente la parte finale, la strofa finale, è l'originale, cioè l'originale, quella che dice «E tu forse chi hai giunti di razza, oppure l'anchiovati come a mia, cu vuol la giustizia si la fazza, non speri che un altro la faccia pettia». Se tu sei uomo e non si testa pazza, metta a profitto sta sentenza mia. Non sarà sopra sta crugiazza, se avessi fatto quanto dico a te. Quindi, l'uomo che, rivolgendosi a Gesù, come siamo ecclesiastici questa sera, wow. è il Cristo che risponde, fatti giustizia a te, non guardare a me che vedi, mi hanno messo in croce. Il tutto fu cambiato perché vennero comunque sequestrate tutte le copie di Vingo nel 1857 e fu costretto lo stesso a quindi Peppe fare una modifica al testo, un'auto da fè come ha fatto De André con diversi dei suoi pezzi. Infatti, e appunto questa volta che cosa dice? Cambia letteralmente l'ultima strofa e fa: e tu chi ti scordasti a testa pazza, chi giù chi c'è scritto un tale gimia, sempre in guerra sarà l'umana razza, si culo fisi lo fisi castiglia, a cui lo offendi lo va se l'abbrazza, e in paradiso si già è con mia, minchiuvaro l'ebrei in testa crociazza, e c'è la terra dispari puttia. Lasciamo la risposta di Cristo. Di chi si sospizza di ritovrazza, chi vuole la giustizia si la fazza, nessuno ormai più la fa rapitia, si tu si nuovo e nu si testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia, che io un chiurato un cruci non saria, s'avessi fatto ciò che dico a Dio, che io un chiurato un cruci non saria. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. Ciccio, tu ti lamenti, Peppe? Io spesso mi lamento, sì. Non mi sta bene nulla. Quindi ti lamenterai anche come i nostri giovani di Zero, che è una piccola factory, un collettivo composto da 3 videomaker italiani che vivono tra Roma e Londra. Che cosa hanno fatto? Come ragazza? Lupino, quindi. Come Lupino, sì. hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione e di denuncia dello sfruttamento del lavoro creativo che si chiama... Zero. Coglione no. Coglione no. Reason no, si chiama forse. E che, con tagliente ironia, punta il dito, dritta al nocciolo della questione, la svalutazione professionale dei lavori creativi, Peppe. Qualcosa che comunque in Italia si tange. I lavori cretini, Ciccio. Lavori creativi, cioè. Ah, creativi, non cretini. Creativi. I lavori cretini? Quelli non si difendono. Mi avvalgo della facoltà di non risponderti, guarda. È proprio comunque la piaga del lavoro gratis, Peppe, di quel fenomeno che porta moltissimi giovani ad accettare stage non pagati o collaborazioni gratuite semplicemente in cambio di visibilità e di esperienza, come se con l'esperienza ci pagassero gli affitti. Tipo il nostro lavoro. Tipo, no, vabbè, ma no, noi è volontariato questo. Ah, okay. Andremo nel regno dei cieli, il nostro è tutto volontariato. È questo, Peppe. Volevo ricordare anche l'appuntamento di domani con la distribuzione dei prodotti del Gas Unical. Vabbè, dire a tutti che comunque per chi non fa ancora parte della mail list, perché dovete sapere che l'ordinazione si fa tramite mail list. Per chi ancora... Tramite Cic? Cosa? Come l'hai chiamata? Mailing list. Per chi non fosse comunque ancora, come si dice, Peppe, nel database. Sì, quindi nella lista, dai, più... Nella lista della mailing list, può mandare un'email vuota all'indirizzo mailing list all'indirizzo vuoto della mailing list, info unica al @topesurridenti.com. Lo posteremo sulla pagina di Clandestino, certo, è più semplice. Va bene, andiamo avanti con the show must go on. Vi lasciamo con una notiziola. Anche i delfini si sballano. Quindi, oltre a Papa Francesco, anche i delfini hanno la loro droga, che è l'area di un pesce palla, Peppe. Un documentario della BBC rappresenta questi simpatici mammiferi che vengono ripresi proprio mentre giocano con i pesci, dopodiché cadono in trance. I gas rilasciati avrebbero su di loro effetti psicotropi. Da domani quindi tutti in mare a cercare i pesci palla. Partiamo con un pezzo degli Offspring, Original Prankster. Ok. Si ritorna. Ok. Salutando Maria, la nostra collega, anch'essa, anche lei. Ma non è la festa mia, è la festa solamente di domani. Domani sarà la festa di Maria. Domani infatti ritorna Indie Radio. La radio indipendente, no, non lo so. Certo, il programma indipendente di Indie Radio. No, di fuori onda radio. Indie Radio è un programma di fuori onda radio, che è sempre una web radio indipendente, quella dove stiamo trasmettendo noi, quella che state ascoltando. Ci sono anche tante altre trasmissioni che vanno, ricordiamo la barra sonora da Valencia, le ciotie dall'etere da Valencia, Valencia con la C. Vicino alla Lamezia. Come si chiama? La GT dell'Etere, che va in onda giovedì, e le altre trasmissioni dei nostri amici che dovrebbero riprendere a presto. I'm waiting. Wood Night Motel. Allora, dalla Peppe, Sicilia, Cicci. Volevo rassicurare tutti i nostri ascoltatori, perché nell'ultima puntata parlammo dell'incendio che sconvolse la casa del Grande Fratello 2013. No, Cicci, no. Sono sconvolto ancora per tutto questo incendio, Cicci. Ha distrutto i miei sogni, veramente. Vabbè, come... Cioè, non si sa se sia di tipo doloso, però sappiamo che in Italia capitano spesso incidenti del genere, anche dovuti, non lo so, parliamo del terremoto che c'è stato all'Aquila, parliamo anche degli smostamenti di terreno che ci sono... Sopra di noi, in questo momento. Nel sud dell'Italia, dove le strade praticamente non esistono e vengono inghiottite, a Roma procede ai ritmi serratissimi la ricostruzione della casa del Talent. Giusto. 2 Grande Lottiamo Fratello. Lottiamo per le vere priorità, Cicci. Questo è certo, Peppe, perché comunque cioè, che accende Mediaset ha una ragione in più di chiunque altro e più di chiunque altro. Cosa, Cicci? Non ho capito. La priorità, Peppe. Ah, le vere priorità sono queste. Priorità al GF. Che ce ne frega degli ospedali quando abbiamo il Grande Fratello, Cicci. Ma certo, Peppe, certo. Allora, Peppe, correva l'anno. Correva l'anno. L'anno correva? Correva l'anno. Ah, non corre l'anno ancora. Non sta correndo l'anno. Non Cicci. Corre l'anno. L'anno non corre, Cicci. Andiamo avanti. Andiamo avanti per un pezzo. No, pensavo che corresse l'anno. Non sta correndo, Cicci. Non corre più. Ancora seduto, tranquillo. È ancora lì. Vabbè. Andiamo con un pezzo molto bello del 1989, Cicci. Tu non eri ancora nato. 1989. Io non ero nato. Io sì, Cicci. È un pezzo di Franco Battiato dall'album Junger, Giungle. Giungle Rosse. Giungle Rosse. Vediamo un pezzo che è un capolavoro, Cicci, secondo me. Ricordiamo che fece una performance davanti a Papa Giovanni Paolo II, dove il Papa si alzò per stringere la mano a Battiato. Quindi Battiato è Dio. Ma comunque stasera molte notizie... religioso, come mai Cicci questa passione? Questo 2014 ti ha portato l'illuminazione? Mi ha portato... È arrivata l'Enel a casa tua? Va bene, andiamo con... Manca il gas. Manca il gas, ma c'è la luce, per fortuna, se no non potevamo trasmettere. Andiamo con il nostro amico Battiato, anche lui siciliano, Cicci, come te. No, tu non sei siciliano. Io sono per metà calabrese e per l'altra calabrese. Hai letto un perfetto siciliano prima, Ciccio. Grazie, ci tenevo, sapevo che avessi commentato. Andiamo con Franco, dai. Bella maestro. E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare bellissimo pezzo, Ciccio. Torniamo. Sì, si ritorna. Una canzone sentita, Peppe. Sì, molto bella. A me piace questa canzone. A te piace? A me mi piace. A me mi piace. Questa canzone a me mi piace. Che bel sottofondo, Peppe. Quasi da giovedì sera. Cosa succede giovedì sera? No, vabbè, sta musica mi sapevo di giovedì sera. Cosa succede giovedì sera? No, dicevo, sta musica mi sa di giovedì sera. Di nuovo, 0 byte. Wow. Non capisco, Peppe, il tuo computer non accetta i miei consigli. Il mio computer non vuole. Allora, Peppe, ricordiamo che le tragedie non finiscono di non finiscono mai, Peppe. La notizia arriva da questo mare. Lo stesso del porto di Gioia Tauro. Lo stesso del porto di Gioia Tauro, dove sono decedute 200 persone nel naufragio di un traghetto che stava percorrendo. Cicci, cosa? Un tratto. Le vittime erano in fuga dagli scontri della città di Malakal. Secondo le Nazioni Unite circa 355. Non è successo qua nel Mediterraneo, quindi. No, è successo nel Nilo Bianco, in Sud Sudan, dove ancora la guerra civile, Peppe, miete vittime su vittime. Poca voce, dice Lorenzo Blues. Alza la voce, Ciccio. Alzo la voce? Mi sente Lorenzo? Il blues ti richiama, quindi. Che blues? Allora dammi un po' d'alti, Peppe. Così il blues si. I blues era. Tu vuoi la voce modificata, Ciccio, poi. Io voglio la voce calda. Non hai alti. Io sono i bassi. Allora, Peppe, sai cosa succede negli USA con la pena di morte? La gente muore? Oltre a morire, da un paio di giorni a questa parte, dal 17 gennaio, praticamente non ci sarà più la pena di morte intesa come morte all'istante, diciamo, senza dolore, Peppe, ma il tutto verrà colorato da un magnifico mix di farmaci che porteranno a a crisi respiratorie, comunque una morte più violenta, Peppe. Non bastava più far morire la gente, Peppe, e forse prendersi anche il lusso di decidere sulla vita degli altri. Adesso si decide sulla vita degli altri anche come morire. Che bel sottofondo, Ciccio. Lo senti? Ci sta. Ok, Peppe. E Ciccio. Dimmi. No, niente. Volevo salutare i ragazzi di Jazz Time, Peppe. I nostri amici di Reggio. Di Reggio Calabria, che ricordiamo il progetto Jazz Time. Portato avanti da questi ragazzi di Reggio Calabria, se potete cliccate mi piace sulla propria pagina FB. Scritto Yestime. Yestime, proprio, sì, Yestime. Per tornare in tema come prima. Per tornare sul clima ecclesiastico. Sul clima. Sul clima. Sul clero. Il clima sarebbe il tema del clero. Dicono di abbassare la musica di sottofondo. No, non abbassiamo nessun sottofondo. Il sottofondo va bene. Ci sarà un po' di blues? C'è il blues ora, quindi. Ok. E niente, non riusciamo a passare il blues? Il blues non si può passare perché c'è un blues allucinante al computer. E mandiamo un pezzo che invece dello stesso autore del blues, però lo dedichiamo al nostro amico Luca da Roma, che ce l'ha richiesto, Ciccio. Blu. Il nostro amico Luca Bruno ci ha chiesto un pezzo di Jimi Hendrix, Astro Man. Blu. Blu. dream just the other day. His mind fell out of his face and the wind blew it away. A hand came out from heaven to bend a badge on his chest. It said, get out there, man, and do your best. Ooh. Si ritorna Ciccio, salutando il nostro amico Bicicletta da Fano, che ci scriveva poc'anzi, e Camilito pure lo salutiamo. Certo. Allora Peppe, da Istanbul, capitale turca. No, non è la capitale. È Ankara. La capitale però... Storica, diciamo. No, nemmeno storica, il divertimento, no? Vabbè, che salutiamo Tukan della Turchia e Mert, che abbiamo incontrato sabato mentre Peppe dormiva. Perché la gente la mattina si sveglia a studiare, forse sabato sera, non era sabato, era venerdì, sì. Perché io sabato non era, tu sei uscito venerdì. Vabbè. Okay. Adesso che lo sanno tutti i nostri ascoltatori, possiamo andare avanti. Okay. Niente Peppe, parlavamo della Turchia e di Istanbul in particolare. Volevo ricordare una bella invenzione per quanto riguarda i gattini e i cani selvaggi, Peppe. I gatti selvaggi, praticamente niente, ci sono disparse qui e là per la strada dei dispenser contenendo cibo e acqua per i randaggi, Peppe, quindi non come in Italia, però il fatto c'è che gli animaletti vengono catturati e sterilizzati prima di avviare un processo di dispenser. Quindi non lo so, Peppe, io sono contrario alla sterilizzazione degli animali, liberi tutti. Anche se randaggi, cioè, alla fine, Peppe. Sento la tua voce? Io sì. Ok, ok. Dico, anche se randaggi, Peppe, però hanno sempre il diritto di avere... figli? Ah, figli, vabbè, comunque gli organi riproduttori, Peppe, le ghiandole, cioè voglio dire, alla fine il randagismo, se visto sotto un'altra ottica, è come, non lo so, come, guarda, te dico, come i barboni. Sono i gatti barboni. No, Peppe, no. No, ti volevo dire una cosa seria, che cazzo, sembra che... No, i barboni non sono una cosa seria, Ciccio. Ti voglio dire, se immagino tipo in un bosco un animale selvatico, un cervo, Peppe. Se immagino un quartiere, prendo un cane, un gatto in considerazione. Non come succede in America, che a volte si trovano anche le alci, però boh. Sì, naturalmente anche qui a Cosenza il problema del randagismo si sente tanto, Peppe. Anche qui all'Unica stessa ci sono quel branco di 15-16 cagnolini che gira. Sono periodici, ogni tanto periodici. Spariscono che, perché a mensa cucinano. Sono carne. Tipo i numeri periodici, Peppe. Spariscono. Sì, ogni tanto spariscono perché a mensa hanno bisogno di... Qui sono le leggende dell'Unica. Ok, Peppe, passiamo al prossimo pezzo. Andiamo che con... è il pezzo di un gruppo che ho scoperto di recente. Oggi? No, è un paio di settimane. e volevo dedicare il pezzo a tutti i nostri amici dell'America Latina che ci stanno ascoltando. È un pezzo dell'Onda Vaga, che è un gruppo uruguaiano. Il titolo è Sequia de Amor. Cioè? Arriba, abajo, desde izquierda a derecha. Hace varios días que no emparcho tu brecha. Que la alcancía, que las zapatillas. Que la vida diaria ya te saca astillas. Trabajando tanto, malviviendo siempre. Durmiendo tampoco, nada es suficiente. Que las cosas están cada vez más caras. Solo eso te quería decir. Oh. Sequía de amor, oh, hay que sequía de amor. Te daría tanto, pero no tanto que nada. Me quedé guardadito tomando jarabe, haciendo llamadas a cualquier vecino. Quiero estar menos horas. Trabajo pensando en medicina, pensando en que tengo que cortarme el pelo y esas cositas, sí, solo eso te quería decir. Oh. Arrivano notizie sconvolgenti dall'Ecuador, che ci invia Camilito. Per quanto riguarda il massacro che sta avvenendo, per quanto riguarda il verde e le foreste, questa notizia si vede, ad esempio, ci arriva dal Yasuni, dal parco Yasuni, dove l'Award for Best Initiative for Sustainability ha assegnato in occasione della United Nations Global South South Development Expo 2012 è vinto proprio l'iniziativa Yasuni ITT. Praticamente cosa accade? Per chi non lo sapesse, l'iniziativa nasce nel 2007 dalla proposta della società civile e dei movimenti indigeni equatoriani di non estrarre il greggio presente nel sottosuolo del Parco Nazionale Yasuni, che è una delle sedi più biodiverse del pianeta. Oltre al territorio di numerose comunità indigene, alcune delle quali sono ancora non contattate o vivono in isolamento volontario. La proposta della società civile aveva come scopo principale quello, uno, di preservare la biodiversità e le culture ancestrali amazzoniche, due, ridurre le emissioni di anidride carbonica e tre, rispettare i diritti dei popoli indigeni, così come indicato nella Costituzione ecuadoriana. Nel 2007 il presidente Rafael Correa ha parzialmente adottato l'iniziativa Yasuni ITT, che prevede il non sfruttamento del petrolio dei campi petroliferi compresi nei confini del parco. Si tratta di un'iniziativa coraggiosa, innovativa e portatrice di esperienze future per il futuro. In particolare possiamo dire che si tratta di un esperimento per la costituzione di nuovi modelli post-estrattivi e post-sviluppisti orientato al buon vivere e al rispetto dei diritti e di tutti gli esseri umani, di tutti i popoli e della natura, Pep. Quindi più eco, meno ego, Pep. Più Ecuador. Andiamo avanti ancora un po' con la nostra musichetta, la nostra scaletta. Volevo mettere un pezzaccio che il nostro amico dall'altra parte del muro apprezzerà tantissimo. Certo, per i veri menti della musica, correva l'anno 1974. No, 72 Cicci. Forse è il 72, mi sembra. Controlliamo le nostre fonti. Intanto ci ascoltiamo un pezzo tratto dall'album dei Led Zeppelin senza titolo, detto in gergo Led Zeppelin 4, del 1971. I Led Zeppelin incidevano un album che ha fatto la storia, Cic. Pep, un album sicuramente l'Atlantic Records si superò nel partorire uno dei più grandi capolavori della musica che grazie a qualcuno possiamo ancora ascoltare, Pep. Ascoltiamo questo pezzo e alla fine andremo in California. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons started to tremble and shake. The children of the sun begin. Seems that the wrath of the gods got a punch on the nose and find a queen without a king. They say she plays guitar and cries and sings. La la la. Can ride a white mare in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Mm-hmm. Capolavoro, Ciccio. Sì, un capolavoro della musica contemporanea, proprio. Contemporanea non tanto, diciamo. Moderna. Cioè, 50 anni sto pezzo, Ciccio. Tutto contemporaneo non è. Non può essere tutto contemporaneo. A volte vorrei fermare il tempo per stare con te. Guarda, Ciccio. Lo stiamo insieme anche senza fermare il tempo. Diciamo che allora Peppe, ci arriva una notizia di una news direttamente dall'Ucraina. La nostra amica Dasha, che fu ospite qui su Clandestino Cid, e niente, abbiamo inviati da tutto il mondo noi, Ciccio, anche dall'Ucraina. Anche dall'Ucraina abbiamo inviati. E la notizia è, se la carica per bene, Ucraina ancora notte di protesta a Kiev, barricata dallo stadio, di 100 persone ferite. Al via oggi una commissione per insientare, per risolvere crisi. USA minacciano sanzioni che se non si fermeranno le violenze. I padroni del mondo, quindi. Eh beh, sì, loro ci sono sempre. Loro minacciano sanzioni per quale motivo? Allora, praticamente è stato bandito il presidente, non si sono fermati nemmeno durante la notte le violenze della capitale ucraina. Circa 3.000 manifestanti pro-Europa si sono sottratti alla polizia, lanciando pietre e molotov, di fatto assediando lo stadio della Dinamo. La Dinamo Kiev, squadra di calcio. Nonostante la temperatura sotto lo zero, ieri 150.000 persone, 200.000 secondo altre fonti, sono scese in piazza per manifestare contro il presidente Viktor Yanukovych, anche per chiedere un leader in grado di guidare il fronte europeista alle prossime elezioni presidenziali in programma nel 2015. A novembre, quando il governo decise di far saltare la firma degli accordi di associazione con l'Unione Europea, che le proteste non si sono mai fermate. Gli Stati Uniti, sanzioni se non si arriva allo stop delle violenze. Hanno chiesto di porre fine alla violenza in Ucraina ed hanno esportato il governo ad avviare colloqui mediati con l'opposizione per impedire ulteriori violenze. Da oggi una commissione presidenziale per risolvere la crisi. Il bilancio degli scontri di domenica è di 40 ricoveri in ospedale, in questi 4 sono molto gravi, almeno 24 dimostranti, 70 poliziotti, poverini Peppe. Il leader dell'opposizione cerca di calmare la folla, aggredito, e niente Peppe, contestazioni. Ringraziamo Dasha per la notizia. E dedichiamo un pezzo a loro, Peppe. Dedichiamo un pezzo all'Ucraina. Un pezzo, diciamo, all'Ucraina. Un pezzo dei Pink Floyd, diciamo, di Roger Waters. Ottimo. Con i Pink Floyd, qui, come c'è scritto sull'album The Final Cut. Questo è Il Ritorno degli Eroi. Ok. Pezzo di Roger Waters, mi senti? Ok, ci sei? Sì. Sì, bel pezzo per Roger Waters, ricordiamo, uno dei grandi della musica, dei Big Ten, uno dei fondatori dei Pink Floyd, il tuo gruppo preferito, uno dei miei gruppi preferiti, sì. Uno dei tanti. Peppe, niente, siamo alle notizie di arte che non c'è in Italia, perché dovete sapere che 2 miliardi per la cultura sono stati buttati, tornano a Bruxelles, 2 miliardi di euro del programma Attrattori Culturali 2007-2013 destinato a migliorare l'offerta culturale delle regioni del sud non sono stati spesi e dovranno essere restituiti a Bruxelles. A questi aggiungono i 1,5 miliardi di fine 2011, uno spreco proprio mentre il nostro patrimonio cade a pezzi, Peppe. Ricordiamo anche quello che sta accadendo in queste ore nel sito archeologico di Kaulon, a Monasterace, Peppe, dove i pezzi del tempio si stanno ributtando in mare. C'è loro, Peppe. Sono stanchi proprio, i pezzi di marmo. Basta, ci buttiamo di nuovo in mare per prendere un'altra rotta. Veramente. Bisogna tornare nella Grecia. Forse. Bisogna tornare nella Grecia. Veramente deludente, Peppe. Pensa, cioè, tutti questi soldi avrebbero potuto mettere al lavoro anche tantissimi ragazzi, Peppe. Archeologi e non solo, cioè per restaurare comunque mantenere vivi comunque i siti archeologici italiani. E va bene, no, comunque noi dobbiamo costruire la casa del Grande Fratello, non possiamo perdere tempo con il vecchio Peppe. Spazio ai giovani, no? Spazio è giovane, sì, roba vecchia va buttata, ciccio. Come si dice? Vino vecchio. E olio nuovo. E olio nuovo, Peppe. Olio nuovo e vino vecchio. Vino nuovo, olio. Vino, olio, olio, vino. E allora, niente. Passiamo avanti la musica. Andiamo con questo qua, anzi, ci sarà un pezzo che avevo letto, no? Sì. Dei Negrita, ciccio. In Negrita con il loro che rotolano a sud aspettando i prossimi fondi da Bruxelles. Esatto, come no, i fondi da Bruxelles invece rotolano verso nord, se ne vanno tornano a Bruxelles. Andiamo con i Negrita. Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, mi vida così sia. Sopra un'onda appare, sido solo qua, sotto un cielo avorio, sotto nubi porpora, mille fuochi accesi, mille sassi sulla via, mentre un eco piano da lontano sale su, qua giù. Ritorniamo, c'è stato un crollo, ha rotolato troppo velocemente verso sud. Ciccio, capita ogni tanto. Capita di rotolare in maniera veloce. Potrei continuare io la canzone, ma invece vi do i nuovi rimedi naturali per combattere i postumi della sbornia. Sbornia, ciccio, cos'è? Quando si beve tanto, Peppe. Ah, ok, non conosco questa situazione. Ok, niente Peppe, i rimedi naturali sono 9, li elenchiamo. Acqua. Vabbè, questo. Però capita che c'è gente che per il posto sbornia riprende una birra in mano invece di bere un po' d'acqua, Peppe. Anche chissà se c'è pure questa lista. Vedremo, lo scopriremo. Banane, Peppe. Le banane sono un alimento che permetterà ricco di potassio, certo, di reintegrare nel nostro corpo tutto il potassio perso, limitando le vertigini che in parte sono dovute proprio a questa carenza. Zenzero. Tutti abbiamo a casa un po' di zenzero. Ma ce l'abbiamo veramente, Ciccio, tu scherzi. È un ottimo rimedio anche per i postumi della sbornia. Abbiamo già visto come sia un ottimo alleato per combattere i disturbi legati al mal d'auto. In questo caso vi aiuterà a alimentare la nausea derivata da un eccesso di alcol. Noi non ci diamo mai, però. Miele e limone. Limone e miele non vanno bene solo se aggiunti allo zenzero, Peppe. È importante che non si limona da soli. Si può infatti creare una bevanda fatta di succo di limone, acqua calda e miele. È facile da assumere, questo composto aiuta a reintegrare liquidi, zucchero e sostanze nutritive e riduce il mal di testa. E poi abbiamo, vabbè, spremate di frutta vari, Peppe. Qui consigliano succo di mela, succo di pomodoro, Petto. La tua famosa pastona dopo le serate con gli amici, Peppe, dove si consuma soltanto qualche birrettina da 33 il primo minuto. Oltre al succo di mirtilla e di mela, anche il succo di pomodoro è un ottimo alleato per combattere i sintomi del post-sbornia. Questo perché il licopene contenuto in questi ortaggi è un potente antiossidante. Farina d'avena. Chi non ha in casa la farina d'avena? Cristina d'avena. Ghiaccio per il mal di testa e il senso di vertigine. Infine, cibo. Il ghiaccio se mangiare... la metti quando cadi, però. Non puoi metterla dopo. Cosa? Se cadi, prendi una botta in testa e ti metti il ghiaccio. No, vabbè, qua dice... per lenire il mal di testa, non so cosa bevono chi segue determinati consigli. Comunque, e poi cibo, Peppe, anche se mangiare è probabilmente l'ultima cosa che si deve residere durante un post sbornia. Giuseppe, il nostro amico, non la penserà così. Non lo so, Cici, io non ti ripeto, non conosco questo stato mentale, status quo. Esatto, whenever you want. Va bene, Peppe, direi di finire questa pagliacciata. Esatto, ci chiediamo i battenti, mandiamo un pezzo, ritorniamo con i saluti e poi buonanotte. Ti saluto. Mandiamo un pezzo di uno dei miei artisti preferiti, anche lui, veramente, il Faber. Un Castel. Sì. Tu sai che il soprannome Faber è dovuto al fatto che lui utilizzava sempre matite Faber-Castell? Lo sapevi? Pensavo fossero dedicate a lui, le matite Faber-Castell. Gliel'ha dato Paolo Villaggio, questo soprannome. Grandi amici con Paolo Villaggio. Tu lo conosci pure, sì. Non lui. Paolo Villaggio no, non l'ho mai incontrato. Comunque, dato che era appassionato di queste matite, gli ha dato il nomignolo di Faber, da Fabrizio. Ascoltiamo il nostro pezzo che suoniamo più spesso, forse, Cicci. Che non stiamo suonando tanto tempo. Esatto, bisogna suonare. Risuoneremo. Ritorneremo più forti di prima. Più forti. Key Blues, dedicato a Lorenzo Blues. Se ti tagliassero a pezzetti il vento li raccogliere, il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli, il viso e il polline di un dio il sorriso. Ti ho trovato lungo il fiume che suona di una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso rosso, ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla, rosa tirale, mai ballato così a lungo sopra il filo della notte, sulle pietre del giorno. Io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino, alla fine siamo caduti sopra il fieno. Persa per poco, preso sul serio, preso per gioco. Non c'è stato molto da dire o da pensare. La fortuna sorrideva come uno stagno a primavera, spettinata da tutti i venti, della sera. E adesso aspetterò domani per avere nostalgia. Signora libertà, signorina anarchia, così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. Ti ho incrociato alla stazione che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo. I giornali in una mano e nell'altra il tuo destino, camminavi fianco a fianco al tuo assassino. Ma se ti tagliassero a pezzetti il vento lì raccogliere, il regno dei ragni cucirebbe la pelle, e la luna tesserebbe i capelli e il viso, e il polline di un dio il sorriso. Ovviamente Ciccio, la versione non censurata abbiamo mandato, possiamo mandare qui. Certo, dove c'è la parte lì di signorina libertà, signorina anarchia, invece di signorina signora libertà, signora libertà, signorina anarchia, invece di signora libertà, signorina fantasia. E ce lo vuole. L'anarchia è come la fantasia. Può essere. È fantastica. Fantasiosa. Plus. Comunque. E niente, siamo arrivati alla fine. Così vizzivetta. La fine della nuova puntata. Svolta nei migliori bar di Caracas. Le salsicce appese che ci guardano, ci guarderanno ancora per molto. Purtroppo devo comunicare ai nostri ascoltatori che sei malato. No, non sono malato. Sono diventato vegetariano per qualche giorno. Vabbè, diciamo che già hai sgarrato. No, Ciccio, non è vero. Oggi mi sono mangiato un panino con melanzane, provola e funghi. Quindi non sgarro io. E salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Salutiamo anche chi è in pigiama e sta andando a dormire. Il nostro amico, il nostro compagno di viaggio, il nostro amico Rino. Lui ci ascolta sempre da... Lui ci ascolta e ci protegge. Ci protegge sempre. Salutiamo Paolo, che ci ascolta anche lui sicuramente. Certo, Paolo sempre, non manca mai. Salutiamo Stefano. Il ragazzo del server. Che è l'altro ragazzo del server. Luca Bruno, Lorenzo Blues, Tarlo, il nostro indignato speciale. Bicicletta da Fano, sempre. Ricordiamolo, se qualcuno non lo sapesse. Salutiamo Dasha, la nostra amica dalla... Dasha che si trova in Ucraina. A Kiev, dov'è? A Kiev, sì. Un saluto. Che sta comunque, ricordiamo, l'Ucraina sta vivendo questo periodo difficile a causa del... Noi siamo vicini all'Ucraina. Certo, Peppe. Con il pensiero, no? Con... Vabbè, sì, certo, con il pensiero. Sosteniamo. Salutiamo Andrea. Blues. Andrea Blues e Andrea anche l'altro Andrea. Andrea, la nostra collega. La nostra collega perché... delle ciotie. Ci scriveva prima Andrea. Ok, vorrei salutare anche Lorenzo Blues, Sonia, Barbara dalla Polonia. Barbara dalla Polonia, salutiamo anche Ivi che ci ha ascoltato dal Guatemala. E niente, diamo a tutti appuntamento al prossima. Flavia anche ci ascolta. Salutiamo. Diamo appuntamento alla prossima trasmissione, alla prossima puntata di Clandestine Cid. Ci saranno un paio di ospiti e ripartirà anche la nostra rubrica Intervista con l'artista. Intervista all'artista, ragazzi. All'artista? Sì. No, ma vedi che è con l'artista. È con l'artista. Sì. L'ho sempre chiamato male allora io. Intervista all'artista. Non si può cambiare il nome, pensandoci. È Intervista all'artista, Ciccio. Facciamo un piccolo sondaggio. Il per sondaggine. Facciamo un sondaggine. Va bene, prossimo pezzo andiamo tutti a dormire. Buonanotte, dai, ciao. Chiudiamo con un pezzo dei Getro dal Ciccio. L'ho già mandato 100 volte, forse, finale. Però ci sta. Questa è la sigla conclusiva di Clandestino. Locomotive Breath. All-time winner has got him by the ball.